Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Siamo al Salone del Libro, Padiglione 2, accanto alla Sala Blu. Vedo qua davanti a me tanto pubblico e io dico: avete fatto bene a venire qui proprio al nostro stand, perché oggi sarà una trasmissione molto allenante. Chi si ferma, infatti, potrà farsi misurare due parametri molto importanti che ci aiuteranno ad allenarci per il nostro benessere. Quindi accomodatevi, c'è ancora posto, se no potete stare in piedi. E comunque ci occuperemo subito di voi. Intanto un invito agli amici da casa a seguirci. Il nostro numero rimane sempre verde a vostra disposizione, 800 24 0024. Qui accanto a me l'ospite del venerdì, il dottor Franco Confalonieri in carne e ossa. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati tutti, benvenuti qui al Salone del Libro a tutti gli amici numerosi che sono con noi oggi. Allora, dottore, dato che volevamo rimanere così in qualche modo legati all'ambiente che ci ospita e sicuramente legati ai temi della nostra trasmissione, oggi, come anticipavo, abbiamo pensato anche noi di leggere il nostro corpo, in particolare due parametri che possono aiutarci. Sì, siamo al Salone del Libro, ci occupiamo di lettura, ma noi ci occupiamo di benessere, quindi proviamo a leggere il nostro corpo attraverso due parametri fondamentali: la frequenza cardiaca, che è un indice delle nostre condizioni di salute, del nostro stato di allenamento e del funzionamento in genere del nostro organismo, e poi le circonferenze della vita e dei fianchi. Per chi lo vuole. Per chi lo vuole, assolutamente volontario. Io per esempio non lo farò, perché sono un indice dei depositi di tessuto grasso e quindi dei rischi legati proprio al grasso, in particolare delle malattie cardiovascolari e rischi di malattie metaboliche. Quindi abbiamo voluto proprio fare qualcosa di originale, ma anche utile per tutti coloro che vorranno sottoporsi a queste valutazioni. Vale tenere la pancia un po' indietro, perché quando lei ha detto circonferenza addominale ho già visto due signori che hanno trattenuto un po' la pancia. Serve a sottostimare il rischio, non so se vale la pena. Noi comunque abbiamo il dottor Mattia Salin, che è laureato in scienze motorie, che fa un piccolo gesto per il pubblico qui, che vi misurerà attraverso un piccolo apparecchio la vostra frequenza, però è una cosa che potete naturalmente misurare anche voi da casa, perché anche voi da casa potete darci i vostri numeri. È molto semplice, bastano due dita, dottor Confalonieri. Sì, per misurare la frequenza cardiaca bastano due dita appoggiate sul polso, nella parte dove c'è il pollice, e si cerca un attimino di sentire la frequenza, poi la si misura per 10 secondi quanti battiti sono e si moltiplica per 6. Se non la trovate al polso, potete provare a appoggiare le due dita al collo, vicino al pomo d'Adamo, dove passa un'arteria molto molto importante, e anche lì ascoltate per 10 secondi i battiti, moltiplicate per 6, poi ci inviate un sms e vedremo di fare una valutazione online anche per voi. O potete naturalmente chiamare l'800 24 00 24. Adesso abbiamo due grandissimi ospiti da presentarvi. Do subito il benvenuto a Laura Chiesa. Ciao Laura, grazie che sei venuta con noi. Ciao, grazie mille di avermi invitata. Abbiamo un oro, quindi campionessa del mondo di spada ad Atene 2004 e argento olimpico ad Atlanta nel 96, accanto per la leggenda, Livio. L'archeologia più che la leggenda. No, l'archeologia piuttosto che la leggenda, non direi. Tu 50 anni fa vincevi il titolo. Roma, sì. In fondo nascevo io e quindi un po' hai vinto anche per me. Che bello, ho fatto nascere delle belle persone, mi fa piacere. Bene, bene. Senti, intanto si offrono volontari, perché Mattia misurerà la frequenza anche a questi due grandi atleti con cui noi ci intratterremo durante tutta la nostra chiacchierata di benessere. Parte Laura Chiesa con questo aggeggino che le misura il dito. Gli atleti hanno una frequenza diversa però, dottor Confalonieri? Diciamo che gli atleti allenati hanno una frequenza cardiaca più bassa, perché hanno un cuore che, avendo migliorato la propria efficienza, è in grado di pompare più sangue ad ogni contrazione, e quindi in questo modo il cuore, pompando più sangue ad ogni contrazione, può contrarsi meno volte nel tempo e quindi la frequenza in un minuto è più bassa. Con l'allenamento la frequenza tende naturalmente ad abbassarsi. La condizione che ci sia all'allenamento, quando manca quello si ritorna normale come tutti gli altri. Anche le leggende ritornano uomini normali? Sì, siamo normalissimi, abbiamo avuto la fortuna di avere delle doti che ci hanno permesso di migliorare le nostre prestazioni e di superare gli altri, ma è un fatto soprattutto casuale, sono i geni di papà e mamma che determinano la qualità di un atleta. Livio, tu come hai fatto ad accorgerti che eri uno super dotato? Casualmente, perché a me piaceva molto giocare a tennis. Poi una volta a scuola ho fatto una sfida col miglior velocista del Cavour dove studiavo e con mia grande sorpresa di tutti l'ho battuto e lì ho scoperto che avevo queste doti. Quindi ho iniziato a fare questa attività nell'atletica, sempre però con la finalità di poter giocare a tennis gratis, perché sai, come atletica eravamo tutti gratuiti nelle società. E invece ho giocato a tennis dopo 20 anni. E però te la sei cavata bene lo stesso. Sì, a tennis sì, senz'altro, facendo le belle discese a rete e basta. Invece in atletica, avendo la fortuna di battere tutti. Laura, a te com'è andata? Perché la spada? Ma è stato veramente un puro caso, perché diciamo, dove abitavo io c'era un ragazzo di una decina d'anni più grande di me che aveva deciso di insegnare scherma. Lui era un buonissimo schermidore e mi vedeva sempre saltellare in cortile, quindi aveva capito da subito che non ero proprio una bambina estremamente né femminile né troppo tranquilla. Quindi mi ha portato in palestra un po' così per ridere e io mi sono subito appassionata tantissimo, perché poi la scherma è uno sport molto competitivo, ma diciamo la competitività e la competizione è quotidiana, giornaliera, perché c'è tutti i giorni in palestra, perché tu quando stai in pedana magari con gli amichetti così ti scommetti la Coca-Cola piuttosto che la caramella, e quindi ogni giorno ci si divertiva sempre tantissimo. Poi giustamente, come diceva Livio, mamma e papà mi hanno dotata dei geni giusti per la scherma e quindi durante le prime gare e le prime prove sono andata bene. E da lì è ovvio che il divertimento si raddoppia. Dottor Confalonieri. Sì, volevo aggiungere una considerazione. Entrambi gli ospiti che abbiamo oggi sono atleti di altissimo livello e soprattutto Livio, veramente uno dei più grandi atleti nella storia dello sport italiano, ma entrambi velocisti. Quindi atleti che tutto sommato avevano bisogno sulla resistenza di allenarsi un pochettino meno rispetto a chi pratica sport di resistenza, quindi probabilmente atleti che anche al top della forma avevano una frequenza cardiaca relativamente più alta, proprio perché non avevano bisogno per il loro sforzo di tanto ossigeno nel tempo e quindi non avevano bisogno di un cuore particolarmente capace di spingere tanto ossigeno nell'unità di tempo. Viceversa, un maratoneta, un fondista, mediamente ha frequenze cardiache a riposo molto più basse. Possiamo dare già una lettura, fare una prima valutazione? Allora, abbiamo i dati di Laura Chiesa e diciamo che probabilmente è un po' emozionata qua di fronte a tutto questo pubblico. Abbiamo una frequenza cardiaca a riposo un po' alta di 100, che credo sia un po' più alta della Laura sua frequenza cardiaca. C'è da dire che queste sono proprio le occasioni giuste perché gli sportivi facciano brutta figura, soprattutto quelli che sono ormai in pensione da qualche anno, perché tutti si immaginano poi dei risultati pazzeschi. Ma questo è magnifico, perché noi ci sentiamo sempre, no, un po' in difficoltà quando siamo... No, adesso sono diventata proprio l'esempio classico della pigrizia dello sportivo, perché da quando ho smesso non faccio più nulla, un po' per impegni miei familiari e lavorativi e un po' anche perché penso che, insomma, ho già dato tanto, allora un po' di riposo me lo merito dal punto di vista fisico. Livio, invece tu come te la cavi? No, ma do ragione a Laura, effettivamente chi ha fatto agonismo ad alto livello dopo tende a diventare più pigro, quindi a recuperare il tempo che ha impiegato prima ad allenarsi e quindi ad ridursi. Però volevo rispondere al dottor Confalonieri come allenamento. Anche i velocisti, ma anche chi fa specialità brevi di scatto, ormai deve allenarsi anche nella resistenza, non è più come ai nostri tempi dove noi eravamo dei privilegiati, vedo Laura, dove bastava il talento, bastava avere lo scatto, avere questa freschezza nervosa per poter vincere. Ora invece devi fare allenamenti anche di resistenza per poter superare con facilità tutti i diversi turni di gare. 800 24 0024 il numero per intervenire in diretta. Dottor Confalonieri, vuole commentare gli altri valori? Sì, diciamo che entrambi avevano una frequenza cardiaca a riposo intorno a 100, l'età è un po' diversa, quindi con una frequenza cardiaca a riposo di questo tipo l'intensità consigliata per un lavoro di resistenza generale particolarmente utile per bruciare i grassi e per dimagrire dovrebbe essere intorno a 140 per Laurea, 120-125 per Livio, ovviamente un po' più bassa per una persona che ha qualche anno in più perché si richiede uno sforzo minore. Io in questo momento, se fossi il loro preparatore o il loro allenatore, ridurrei ancora un po' questi parametri proprio tenendo conto della situazione particolare in cui abbiamo misurato. Livio, lui si è candidato allenatore, intanto l'ha buttata lì. Sì, però io ho un attenuante, per arrivare qui ho fatto quasi un chilometro, non dico di corso, ma camminando molto veloce, quindi come velocista ho fatto più fatica di Laura. Senti Livio, certamente. Quindi posso dire che Livio Berruti ha corso per me anche. Brava, sì. Ha fatto una corsa per venire. Puoi dirlo, e beh, ragazzi, non è poco. Intanto arrivano i messaggi. Andrea, Modena, 54 battiti al minuto. È sicuramente una persona allenata per gli sport di resistenza e nel suo caso così indicativamente un allenamento lipolitico, quindi per dimagrire, dovrebbe essere intorno ai 90-95 battiti al minuto. Siccome però è già un ragazzo molto allenato, per migliorare ulteriormente l'efficienza del suo apparato cardiovascolare dovrà lavorare su frequenze più alte, quindi intorno ai 130-140 battiti al minuto. Agli amici da casa che possono chiamarci all'800-24-0024 come ogni giorno anche qui al Salone del Libro, invito anche, se hanno un metro da sarto, a misurarsi la circonferenza addominale e quella dei fianchi. Dottor Confalonieri. Esatto, una misurazione sulla pancia, per così dire, all'altezza dell'ombelico, proprio per avere un punto di riscontro, e una misurazione a livello delle anche. E poi basterebbe fare la divisione, questa la possono fare anche da casa, centimetri della circonferenza della pancia diviso centimetri della circonferenza delle anche ed inviarci il risultato, li commenteremo insieme. Karim ci scrive: 65 battiti al minuto, non faccio sport. Non ci dice se è stato un atleta, però. No, probabilmente è un soggetto naturalmente dotato di doti di resistenza, diciamo che la normalità va dalle 60 alle 80 pulsazioni per minuto, quindi o è una persona molto attiva o è una persona che nasce geneticamente con un cuore grande e capace di pompare parecchio sangue. Allora, dottor Confalonieri, lei tante volte ci ha detto che è importante prima di iniziare un'attività sportiva fare dei test di valutazione. Adesso invece vediamo che basterebbero questi due parametri. Abbiamo esagerato prima o la facciamo troppo semplice oggi? Beh, diciamo che oggi ci siamo adattati a un contesto un po' particolare, per cui era difficile sottoporre i nostri ospiti e anche il pubblico che affolla lo stand a valutazioni particolarmente elaborate e complesse. Per cui la valutazione funzionale o la valutazione precedente all'attività è assolutamente necessaria, da un lato per vedere se esistono fattori di rischio, cioè se possiamo fare qualsiasi attività sportiva o se ci sono attività sportive che è meglio evitare. Dall'altro lato per orientarci in termini di intensità, cioè per capire la quantità e la qualità dell'attività sportiva che andremo a fare. Da questo punto di vista quindi una valutazione iniziale affidata a uno specialista è estremamente importante. Peraltro, e concludo, gli aspetti da valutare sono quelli che stiamo valutando qui, cioè la composizione e la struttura corporea e quindi i fattori di rischio da un punto di vista osseo e muscolare, e dall'altro lato la funzionalità cardiaca e respiratoria e quindi la predisposizione all'esercizio e allo sforzo. Ecco, lei ha detto proprio la conformazione fisica. Vediamo, Laura, noi da donne lo vediamo bene, ci sono quelle che sono un po' fatte a pera e un po' a mela. Dottor Confalonieri, non è tanto d'accordo su questa mia distinzione, però è così. Livio, non fa... da uomo ci sono le donne mele e le donne pere, sì, di sì, la verità. Sì, sì, ce ne sono tante purtroppo. Noi siamo più per la mela che per la pera, anche se però se la pera è ben condotta e ben armonizzata nei movimenti attira certamente l'attenzione. Dottor Confalonieri, quindi vada per la mia definizione di pera e mela, che così la passiamo anche ai nostri amici da casa. No, è una definizione sicuramente importante. Diciamo che mediamente gli uomini sono a mela e le donne a pera come concetto, e la conformazione cosiddetta a mela è una conformazione più a rischio dal punto di vista cardiovascolare, proprio perché chi si struttura a mela significa che ha mediamente più pancia, quindi più grasso depositato a livello addominale e quindi maggiori rischi di patologie cardiovascolari o dismetaboliche. Quindi per la salute, tutto sommato, meglio essere conformati a pera che non a mela. Siamo tornati insieme qui al Salone del Libro, Padiglione 2, accanto alla Sala Blu. Oggi diamo i numeri della salute, due parametri importanti, frequenza cardiaca e giro vita. 824 0024, agli amici che vogliono intervenire chiamando il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Qua accanto a me il dottor Franco Confalonieri, Livio Berruti, Laura Chiesa. Abbiamo iniziato con due volontari puntando in alto, ma molti di voi ci stanno inviando i loro numeri, circonferenze, frequenza cardiaca. Il pubblico che è presente qui al nostro stand si sta facendo fare la misurazione da Mattia Salin, che preparerà per loro anche un programma di allenamento. Quindi questo è l'invito che vi rivolgo, affidatevi per un allenamento in tutto benessere. Dottor Confalonieri, lei ha parlato di circonferenze. Il numero della circonferenza addominale è molto importante, abbiamo parlato di conformazione a pera, a mela, quelle che sono più protettive della nostra salute, ma di questi numeri allora vogliamo dare qualche indicazione così i nostri amici da casa possono farsi una sorta di, tra virgolette, autodiagnosi? Molto brevemente, abbiamo invitato a misurare in centimetri la circonferenza a livello dell'ombelico e a livello delle anche. Dividiamo il primo valore per il secondo, poniamo di aver misurato 100 in entrambe le situazioni, 100 diviso 100 darà 1. Ecco, per gli uomini il parametro dovrebbe essere inferiore a 1. Se siamo inferiori a 1 il fattore di rischio è contenuto. Per le donne invece, sempre la divisione circonferenza in centimetri a livello dell'ombelico, circonferenza in centimetri a livello delle anche, dovrebbe essere inferiore a 0,85. Quindi potete fare questa misurazione e avete un'idea di quanto state rischiando in termini di accumulo di grasso addominale. Sembrano un po', no, i numeri di acciughe. No. Sono permesse un po' di rotondità, quella a cui accennava sì, Livio? Assolutamente sì. Allora, io ho Rita che ci chiama da Roma, Angelo da Milano, Giuseppe da Messina, Francesca da Brescia. Rita, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per avermi chiamato. Grazie a lei, ci racconti? Allora, guardi, io tengo sotto pressione, tengo la pressione a bada con mezza pasticca di Blopress 8. Sì. Però quello che noto, quindi la pressione minima e i valori massimi sono, diciamo, contenuti. Quello che noto sempre è la frequenza 93, 76, 83, 85. Devo dire che sono, a parte i miei anni, 67 anni, sono una persona attiva. Quindi cammino svelta. Però ecco, dovendo fare della ginnastica perché ho problemi di schiena, mi hanno consigliato il nuoto libero oppure dorso. Ecco, volevo sapere dal dottore se è normale questa mia frequenza così sempre alta. Dottore. Diciamo che il consiglio del nuoto è un consiglio sicuramente importante perché essendo uno sport aerobico diminuisce naturalmente la pressione arteriosa e quindi riduce i problemi della nostra ascoltatrice. Naturalmente il presupposto è che sappia nuotare dignitosamente, se no non riesce a sviluppare un lavoro sufficiente. Relativamente alla terapia, senza entrare nel dettaglio, ricordiamo che una terapia antiipertensiva con beta bloccanti riduce anche la frequenza cardiaca, viceversa altre tipologie terapeutiche incidono sulla pressione e non sulla frequenza cardiaca. Angelo da Milano, buongiorno. 824 0024, ci dia i numeri, lei ha fatto il nostro numero verde, ma ci dia i suoi che ce li giochiamo, dottor. Buongiorno, ma spero che sulla ruota voi di Torino. Senta, grazie di avermi richiamato prima di tutto. Io, vabbè, la mia circonferenza non ce l'ho perché in questo momento sono per strada, non la so. Ma lei è panciuto? Scusi, Angelo, mi dica la verità, lei è un po' panciuto o è secco? No, sono abbastanza secco. No, ho le tipiche bandigliette dell'amore, dai, mettiamola così. Quella è un po' pancetta, dottor Confalonieri? Che ci piace, però vabbè. Quelle le consentiamo. Invece Livio Berruti devo dire che è liscio, tutto è scolpito. No, come diciamo, mai? No, diciamo che c'è un eccesso di colazioni di lavoro, che il lavoro soprattutto è di ganache, no? Perché questo ti permette di aumentare le tue rotondità e quindi di acquisire una resistenza alla fame per lunghi periodi. Allora Angelo, Senta, io ho 46 anni, è già 5 anni che mi alleno col cardiofrequenzimetro, lo uso regolarmente. Il mio battito riposo è circa 60, tra i 60 e i 65, un po' di più la sera, però ho notato che quando corro arrivo velocemente, io mi alleno intorno ai 145-150 battiti al minuto, però in bicicletta non li raggiungo mai, non riesco a superare i 130, è normale o... Dottor Confalonieri, deve cambiare bici oppure è normale? No, è normale, è assolutamente normale, nel senso che la corsa è normalmente un impegno metabolico più elevato rispetto al ciclismo, naturalmente a parità di allenamento, quindi con la corsa le frequenze cardiache tendono a salire naturalmente molto di più. Faccio un esempio, mi sono occupato per anni di triatleti a livello nazionale e internazionale. I triatleti, pur essendo al massimo livello in tutte e tre le discipline, si allenavano regolarmente con frequenze cardiache molto più alte nella corsa che non nel ciclismo. Proprio questo è legato alla tipologia di impegno e di reclutamento muscolare. Giuseppe ci chiama da Messina, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono alto 1,73, verso 68 kg. Cosa è successo, Giuseppe? Pronto? Sì. Io sono alto 1,73, verso 68 kg. I battiti sono intorno tra 55 e 60. Sì. A proposito di circonferenza della vita, diciamo, io sono molto magro, anzi vorrei ingrassare. Il mio problema è il colesterolo e la pressione minima a 90. Che tipo di allenamento dovrei fare? Dottor Confalonieri, qua mi mettono in difficoltà di fronte a tutta questa gente perché sono domande un po' complesse. E diciamo che un colesterolo alto, se uno si allena regolarmente ed è magro, tutto sommato potrebbe anche essere legato a problematiche di tipo genetico, quindi da un lato è più difficile tenerlo sotto controllo, dall'altro lato sono minori i rischi. Come dicevo prima, se c'è una minima alta, 90, siamo al limite per considerarla alta, non è una minima di cui preoccuparsi troppo, diciamo così. Lo sport aerobico è lo sport ideale da questo punto di vista, anche la camminata, anche il trekking, insomma, anche basta muoversi. L'uscita in mountain bike che consente di vedere paesaggi particolarmente belli sono indicatissime. Livio, ma secondo te lo sport dovremmo sceglierlo in funzione dei risultati dei test oppure delle nostre passioni perché ci piace? Ma sai, normalmente se tu segui la passione viene molto meglio, perché con la passione tu rendi al massimo, quindi ti puoi concentrare per ottenere i migliori risultati. Infatti anch'io l'avevo la passione per tennis, però poi bisogna valutare la tua attitudine, le tue qualità genetiche predisposte. Se tu poi hai delle qualità che ti permettono di fare con più facilità un altro sport, è ovvio che quando vinci con facilità è la miglior droga, continui a fare lo sport, cosa come è successo a me, quindi abbinare passione e capacità, però fra le due privilegiare le capacità quando tu scopri che hai delle attitudini particolari per un determinato sport. Laura. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che superati certi livelli di attività sportiva, diciamo che lo sport non è più un hobby ma diventa un lavoro vero e proprio, perché ci si allena tutti i giorni, mattino, pomeriggio, sabato, domenica si va a fare la gara, quindi se non fai un qualcosa che ti piace tantissimo non ne esci vivo, tant'è che soprattutto in giovane età, perché è ovvio che quando magari hai 15-16 anni il sabato e la domenica non esci magari con gli amici perché vai a fare le gare, ma questo non ti pesa perché vai a fare una cosa che ti piace ancora di più rispetto a, che so, un'uscita con gli amici in discoteca, piuttosto che, insomma, come si dice a Radio 24, la passione si sente. Assolutamente, eh? Sì, e se non si è appassionati di quello che si fa nello sport non si va avanti, ma un po' come un in po tutto nella vita, secondo me. Livio. Succede anche questo, che a volte conoscendo a fondo uno sport, anche se hai meno passione, ti innamori di più, perché conoscendolo meglio scopri che delle qualità che tu non conoscevi, come quando io studiavo, io pensavo di fare ingegneria, poi sono negato per il disegno, ho scelto chimica, anche se mi piace c'è leggermente meno, poi mi sono talmente innamorato che per me l'esochimica è la più bella materia che abbia conosciuto e abbia studiato. Pensavo che tu mi dicessi una cosa del genere della moglie: più la conosci più ti innamori. È un discorso pericoloso, è un discorso molto pericoloso questo. Molto pericoloso. Allora 824 0024, Miriam ci chiama, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Allora, senta, io sono alta 1,47 m, sì. Peso 45 kg, faccio due volte alla settimana attività fisica. Ho fatto la differenza tra fianchi e vita, e allora io sarei in sovrappeso. Oh, dottor Confalonieri, aspetti, ci vuole dare i numeri? Il dottor Confalonieri così fa il conteggio intanto che noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade? Certo. Ci dà conferenza fianchi. Conferenza fianchi? Circonferenza fianchi? 88. 88. Vita 72. Vita 72, voilà. Voilà, siamo tornati dal Salone del Libro, questo lo sapete, oggi numeri per allenarci bene, insieme a Livio Berruti, Laura Chiesa, Franco Confalonieri, anzi il dottor Franco Confalonieri, 824-0024, ha fatto la divisione? Sì, ce l'ho fatta con l'aiuto di una macchinetta, però dividendo 72 per 88 il risultato è 0,81, quindi la nostra amica è assolutamente in un valore ideale, bisogna essere sotto 0,85, quindi tutto ok. Tutto ok, beh, tiriamo un sospiro di sollievo perché allenarsi e non vedere scendere la pancetta non è tanto carino, no? Ma dipende, nessuno si sente bene. Allora, intanto noi abbiamo avuto la possibilità di fare dei test di misurazione anche qui, forse qualcuno del nostro pubblico vuole intervenire. Eccola, benvenuta. Ciao. Io ho fatto la misurazione della frequenza cardiaca e anche della pancia e tutto. Praticamente, cioè, si guarda il rapporto della circonferenza pancia e qui si vede se c'è un accumulo di grasso e se ci possono essere delle malattie a rischio, tipo cardiovascolari, cose del genere. E tu come sei venuta fuori? Perfetta. Giovane, sì, bella. Sì, perché sono ancora giovane, non c'è nessun problema. E c'è anche una tua amica accanto. Ciao, ciao, benvenuta. Come ti chiami? Mi chiamo Rossana e anche io ho fatto questo test, però solo della frequenza cardiaca, e mi hanno messo questa macchinetta al dito e mi hanno preso il battito cardiaco al minuto. Sei innamorata tu? Sì. E allora batte più forte, no? Quanto avevi di frequenza a riposo? 117 più o meno. A riposo? Sì. Sei molto emozionata ad essere qua di fronte a noi, va bene? Perché l'emozione conta, oltre che la passione si sente. Assolutamente. Allora, noi abbiamo parlato di età, abbiamo avuto due interventi di due ragazze giovanissime. Livio, secondo te c'è un'età ideale in cui si potrebbe iniziare a fare sport seriamente? Beh, innanzitutto bisogna stare molto attenti, perché fare sport vuol dire fare agonismo. Prima bisogna fare divertimento. Fino a una certa età, fino a 9-10 anni, bisogna evitare assolutamente l'esasperazione agonistica. Deve essere un gioco fatto con sorriso, col piacere di confrontarsi con gli altri, ma in amicizia, senza nessuna ricerca di risultato. Poi a 11-12 anni è ovvio che nasce in tutti i giovani questa voglia di confrontarsi e di misurarsi in maniera più precisa, e allora lì si può intervenire facendo un'attività agonistica più precisa, però bisogna stare molto attenti a non esasperare questa tendenza, se no un ragazzo arriva a 18 anni quando arriva quindi alla maturazione, che è già saturo di conoscenze di pratica agonistica, per cui si stufa, quindi non essere troppo precipitosi nell'affrontare lo sport agonistico. Laura, tu hai un bambino piccolo. Sì, 21 mesi. 21 mesi, quindi adesso si muove da sola. Che salutiamo. Cuore da di mamma. Casa. Ecco, come, tu che sei stato un atleta, un oro, per il tuo bambino lo spingerai o gli dirai calma? Di sicuro gli farò fare tantissimo sport, perché un po' un terremoto, almeno facendo sport si sfoga e magari torna a casa la sera un pochettino più tranquillo. No, però a parte gli scherzi, se facesse sport sarei molto contenta, perché diciamo che lo sport insegna anche tantissime cose, ti insegna a prenderti le tue responsabilità, ti insegna a stare insegna con altre persone, crescere. Ti insegna a crescere, ti insegna a rispettare le regole, insomma ci sono tutto un universo di cose che si imparano attraverso lo sport che non sono così scontate. Andrei a Lorenzo, che ci chiama da Milano. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, ci racconti i numeri. Dunque, i numeri del fianco e vita non posso misurarli perché sono in giro. Comunque, sì. Io ho 43 anni, sono alto 1,85, peso 74,5 kg. Siccome ho ripreso da poco a fare, diciamo, a mantenermi in forma, a correre, andare in palestra, perché negli ultimi anni sono stato impegnato non io ma mia moglie, perché ho avuto due figli. Sì. Diciamo che nel giro di due mesi ho ripreso già abbastanza una buona forma, perché ho già perso un paio di chili. Lorenzo, venga al dunque. Volevo sapere la frequenza cardiaca ottimale per le mie caratteristiche. Va bene, Lorenzo, dottore, ce la fa? Avrei bisogno di sapere l'età, se me la ridice, per favore. 43. 43. E la frequenza cardiaca a riposo? 65. Okay, faccio due conti e gliela do. Va bene, intanto ottimale, in un attimo, intanto Lorenzo, io la saluto, glielo dico per radio, quindi lei ci segua. E intanto io faccio un saluto veloce a Francesca da Brescia, perché ho in linea Rosanna Banfi, una cara amica. Rosanna, ciao. Buongiorno. Rosanna, stai lì con me, perché tanto inizia a recuperare i due dati che ci sono utili oggi, che sono la frequenza cardiaca, e se vuoi puoi aggiungere il girovita, e io vado da Francesca. Francesca, benvenuta. Buongiorno. Sì? Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, Francesca. Via coi numeri, che così facciamo allora una cosa mirata. 48-50 i battiti a riposo al mattino. Sì. Poi io ho 89 giro fianchi e 67 giro vita. È una forma un po' strana, secondo me, come... Non Ma è una forma proprio femminile, insomma, vorrei dire. Ma no, Livio. È una clessidra. È una clessidra, dice Livio Berruti. E beh, anche la forma clessidra ci piace, no? Dal punto di vista della salute andiamo assolutamente, assolutamente bene. È perfetto, un rapporto di 0,75, quindi ideale. E aggiungo, già che ho preso il microfono, che la frequenza cardiaca allenante per il nostro amico di prima era intorno ai 130-135. Rosanna, tu l'hai preso i numeri? Ciao, presi, intanto. Come presi, sono? Io purtroppo ho 0,86, mannaggia. 0,86. Siamo al limite. Devo dimagrire. Pochissimo. Senti, tra l'altro, Rosanna, domenica 16 parteciperà come madrina delle donne in rosa. Io sono molto contenta di parlarne oggi in chiusura. Alla Race for the Cure, è una corsa 5 km o una passeggiata di 2 km che è aperta a tutte le donne alle Terme di Caracalla. Rosanna, raccontaci. Allora, è a parte devo dire un'esperienza proprio bellissima, oltre che la corsa è la cosa minore, non bisogna per forza correre, c'è la passeggiata di 2 chilometri che si fa in compagnia, si fa anche con il cane volendo, sì. Con i bambini, con i passeggini, con la bicicletta, è una un maniera modo per stare insieme, certo. È una maniera per stare insieme a tutte queste donne in rosa, cioè perché le donne che hanno avuto, che hanno il tumore al seno indosseranno la maglietta rosa, tutti gli altri la maglietta bianca, e devo dire che fa molto riflettere questa giornata, oltre che divertire perché si sta insieme, fa riflettere perché si vedono tantissime magliette rosa, e questo lo scopo della Common, che è l'organizzazione che organizza questa rete, è quello di far sì che queste magliette rosa diminuiscano sempre di più. Avere tante magliette bianche, per avere tante magliette bianche bisogna credere nella ricerca e sensibilizzare tutti e fare informazione nella prevenzione. Rosanna, ti saluto, ti ringrazio per essere stata con noi. Buona Ciao, giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Io ringrazio Livio Berruti, Laura Chiesa, il dottor Franco Confalonieri, ringrazio voi che ci avete seguito da casa e voi che siete venuti a trovarci. Buona giornata da Nicoletta Carbone, vi aspetto domani con Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Grazie, buona giornata.